Letture di Radio 24. Se un videogioco è ambientato in una realtà alternativa o in un futuro lontanissimo, è importante che tra gli autori ci sia anche qualcuno in grado di immaginare come potrebbero essere vestiti i protagonisti. E così, all'interno di un'importante game company, è nata la figura dello stilista per videogame. Fiona Cribben ha una trentina d'anni, è irlandese e fa un lavoro che non credevo esistesse e che anche lei non crede che qualcun altro faccia. Disegna gli abiti per i personaggi di uno dei videogames più giocati nel mondo, EVE Online, per una delle più grosse game company del mondo, la CCP Games. Tutto questo è già abbastanza glamorous, ma non è ancora niente, perché l'edificio in cui lavora Fiona è proprio il genere di posto che uno immagina quando sente pronunciare le parole Internet Company o Game Company. Quattro piani di uffici open space con il biliardo, il calciobalilla, l'acquario coi pesci multicolori incassato nel muro e lavagne piene non di numeri, ma di nomi. I personaggi, le famiglie, le trame e le sottotrame del gioco e bambini che girano liberamente tra i tavoli perché le scuole sono chiuse e i figli dei dipendenti sono ben accetti e naturalmente sono tutti vestiti come gli pare, poche camicie, nessuna cravatta, moltissime barbe incolte e quasi nessuno ha più di 40 anni, nessuno ha i capelli bianchi. Insomma, il luogo di lavoro perfetto. E se ne esce come ispirati, come ubriachi di potenziale creatività, anche solo dopo averci trascorso un'ora, come ho fatto io. Ma neppure questo basta, perché il glamour, l'esotismo, l'interesse, la stranezza aumentano esponenzialmente se si aggiunge che CCP Games sta in Islanda, a Reykjavik, nella zona del porto, e che dalla finestra dell'ufficio di Fiona, sotto nuvole nere, si possono vedere i traghetti e i pescherecci attraccati nella baia e, sullo sfondo, il Monte Esja, ancora coperto di neve, anche se siamo a giugno. Disegnare gli abiti per gli eroi di un gioco elettronico significa che Fiona sta per X ore al giorno davanti al mega schermo del suo computer, dove X può corrispondere a 2, ma anche a 10 ore. C'è un'agenda comune, ci sono obiettivi comuni, ma ogni membro dello staff decide come, quando e dove lavorare. Fiona disegna con una specie di pennarello elettronico col quale veste le decine e decine di personaggi che popolano EVE Online. Una volta completati i disegni, li passa ai tecnici del 3D, che inseriscono i personaggi nel gioco. I disegni sono appesi a decine dietro la scrivania di Fiona e sono in pratica gli unici pezzi di carta che vedo durante la mia visita a questi ambienti, che sono insieme asettici, niente block notice, niente penne, niente fotocopiatrici o stampanti sommerse di cartacce, ed estremamente accoglienti, più un club che un ufficio, più la cameretta di un sedicenne che un club. Il lavoro di Fiona ha l'aria di un gioco e di fatto è il sogno di ogni ragazzina diventato realtà, vestire le proprie bambole. Ma visto dall'ufficio commerciale non è un gioco per niente, e lo capisco quando, dopo aver regalato a Fiona un pezzo di parmigiano, da un chilo, che ho portato con me dall'Italia, per ringraziarla del tempo che mi concede, le chiedo se posso avere un foglio dei suoi bozzetti come ricordo, uno a caso. E lei mi risponde costernata che no, proprio non è possibile. I suoi disegni non devono lasciare l'edificio. Ma mi darà una brochure con la pubblicità della nuova espansione di EVE Online. Bello, ma non è la stessa cosa. Un po' troppo? Non è un po' eccessiva? Non fa un po' ridere questa smania di segretezza intorno a degli abiti virtuali disegnati per vestire dei personaggi virtuali? In realtà no, perché, mi spiega Fiona, partendo dalla collezione virtuale di EVE Online che lei ha disegnato, l'azienda sta pensando di realizzare, anzi sta già realizzando, dei modelli reali, degli abiti reali da mettere in vendita, per ora sempre online, per i fans del gioco. I soldi arrivano soprattutto dagli abbonamenti dei giocatori, 15 euro al mese per 350.000 abbonati, che fa 5.250.000 euro al mese. Ma i soldi non sono mai abbastanza, ed è chiaro che a un pubblico così fedele si può vendere qualsiasi cosa. La maglietta col logo, 25 dollari, i modellini della nave spaziale, 75 dollari, il romanzo ispirato a EVE, 40 dollari, e sì, certo, anche i vestiti disegnati da Fiona per la para-umanità dell'anno 20.000 d.C. In fatto di moda, Fiona condivide i miei disgusti. Dolce & Gabbana, la penosa nevrosi da griff delle donne italiane. E mi elenca invece 3 o 4 nomi di stilisti che le piacciono e che io ho sentito nominare forse 2 volte, ma che, a un controllo rapido sui loro siti, mi sembrano effettivamente in linea con le cose molto dark, pelle nera, cerniere, fibbie, che disegna Fiona. Rick Owens, Gareth Pugh and Emile Mister. Pendo dalle sue labbra non solo perché, a differenza di lei, io leggo più spesso i fumetti che Vogue, ma anche perché Fiona ha cominciato come disegnatrice in un atelier vero, con abiti veri, a New York, quando aveva poco più di 20 anni. Dunque sa di cosa parla. Dopodiché si è fidanzata con un islandese e ha dovuto cercare un lavoro a Reykjavik, dove gli atelier di moda non abbondano. Ma a Reykjavik c'erano quelli di CCP Games, che probabilmente non avevano mai pensato di avere bisogno di una collaboratrice come Fiona. Lei però ha cominciato un pressing quasi giornaliero. Gliel'ho ripetuto per mesi. Io vi servo, vi servo, vi servo. E alla fine li ha convinti. A occhio e croce ha fatto bene perché, per quanto possa suonare naif, raramente in un luogo di lavoro ho visto tante facce sorridenti e rilassate. Forse se CCP Games non facesse soldi a palate, l'atmosfera sarebbe diversa. Ma li fa. Cosa resta da dire? Ah sì, il gioco. EVE Online è un gioco di fantascienza, non un fantasy. Si svolge nell'anno 23341 e in sostanza è una guerra tra 5 razze postumane. Gli Amar, i Caldari, i Gallente, i Gioviani, i Minmatar. L'obiettivo, spiega il sito... No, è inutile. Per capirci qualcosa bisogna giocare. Ma per giocare bisogna, oltre che pagare, avere la possibilità di lasciarsi la vita reale alle spalle, diciamo per qualche settimana. E alla fine è probabile che la spesa e lo sforzo vi permetteranno di orientarvi fra le tribù, i pirati, le alleanze. Settimane di pratica, mesi. Vale la pena? Fiona ha un figlio di 3 anni. Gli permetterà di giocare a EVE Online? No. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Claudio Giunta dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Esercitazione per l'esame di giornalismo. Il candidato, circa il problema dei rifiuti a Napoli, consideri che 1. In Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori, in Campania neanche uno. In Italia ce ne sono 53, mentre in Francia ce ne sono 127. De Magistris ha detto che non vuole costruirne. 2. Una percentuale di rifiuti sino al 60% in Europa è utilizzata per produrre energia. In Italia, ricca di rifiuti e povera di energia, la percentuale è del 14%. In Sicilia è 0. 3. In Lombardia, dove sono già bravi, la raccolta differenziata arriva al 47%, a Milano è al 38%, mentre in Europa i migliori sfiorano il 60% e vivono comunque in un altro pianeta. Le campane del vetro, per dire, sono divise per colore. De Magistris ha detto che vorrebbe riciclare il 70%, anche se non si capisce che fine farebbe il restante 30%. Il sindaco, infatti, ha detto che non vuole inceneritori né discariche. 4. Per trattare la spazzatura differenziata, come è noto, sono necessari degli impianti di compostaggio. In Italia ce ne sono 258, in Campania neppure uno è attivo. Ciò posto, il candidato ha 7 secondi per scegliere tra le 2 seguenti opzioni. A. Le vecchie giunte napoletane volevano fare cose giuste, ma non le hanno fatte. B. L'attuale giunta napoletana vuole fare cose sbagliate e le farà. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Filippo Facci Il vento sta puzzando, da Libero del 5 luglio. Dopo NIMBY è banana. La